Perché questo? 100 celle Avengers, la trasmissione che va in onda sottovoce. In notturna. Come piace a noi. Madonna, quando un giorno. Sigla! Che non merite, che non sono più quelli che cerchi veramente. Simbolo della paura della gente. Senza terra verde, la musica si riprende. E buonasera, questa volta è il caso di dirlo, da Radio Forte 100 Celle Avengers in onda questo sabato 18 dicembre alle 22 del 2021. Comunque ho detto tutto sfasato, ma tutto per sottolineare che ci siamo spostati in una fascia a noi diciamo insolita. Ma perché dobbiamo dire delle cose che non potevamo dire di giorno? Esatto, hai già colto quello che volevo dire. Siamo praticamente facendo strizzando l'occhio alla fascia non protetta. Possiamo finalmente dire quello che 100 Celle Avengers ha sempre voluto dire e non ha potuto, perché comunque il suo target è dei giovani. Così mi spaventi. Comunque, scusa. Aspetta, scusate, ma le parolacce, ma cosa? Volevo fare l'inizio sottovoce, pacatamente, un alla po' col Marzullo. Diesel, alla Marzullo, perché comunque rischiamo anche di dare fastidio invece agli anziani che ci ascoltano. E comunque sia permesso a me di presentare alle mie destre il buon tecnico bistrattato Silvano. Io guarda, questa sera non so cosa fare perché non ho nemmeno lo spazio per muovermi, c'ho anche un mostro qui perché vicino. Siamo però sempre buonasera, di più, buonasera. Siamo sempre di più, Silly. Buonasera. E invece alle mie sinistre abbiamo la Virgin. Buonasera a tutti, che bello di sera, mamma mia. E a seguire abbiamo la giornalista senza articoli, Gabri. Questa cosa la spiego. Gabri? Ma no, io invece volevo dire che stasera volevo andare a ballare in discoteca, è sabato sera, ma avete trascinato in radio? Ma soprattutto un minuto di silenzio a chi ci non sta ascoltando. Non ci crede nessuno, Gabri! Non ci crede nessuno, Gabri! E proseguendo sulla fascia sinistra, la dotta Betta. Troppo buonasera, ragazzi. Raga, io stora dormo, sono vecchia. No, diciamo. Come te capisco. E non è finita qui perché si conclude con la maestra Viola. E buonasera, ragazzi. La notte è giovane, noi siamo giovani. Più suadente, Viola, più suadente. La notte è giovane, grazie. Noi siamo giovani. Cioè, vi dico solo che questa presentazione diventa sempre più simile a un appello. Siamo talmente tanti, folti, che poi ci scordiamo sempre di salutare il solito sonnacchione Iron Man. Buonasera al cazzo. No, Iron Man, non comincia così. Ma c'ha ragione, scusa. Mamma mia, cioè, ti abbiamo disturbato. Può dirle le parolacce. Non mi avete salutato. Senti, sempre sta polemica sterile. Oggi, ti dico, siamo talmente gonfi di rubriche nuove, rubriche vecchie, contenuti che sprizzano fuori perché siamo stati fermi una settimana, non so se ci avevi fatto caso, che quindi spazio per te per dire le solite minchiate ce n'è poco, poco pochino. Vogliamo però quantomeno metterci in contatto con chi non fosse d'accordo con noi e ci volesse dire che non è d'accordo con noi, dicendogli qual è il modo per mettersi in contatto. Sì, naturalmente. Ti do il gancio però. Sì, ti ho colto subito. Prego. Il canale Telegram dove potete scriverci, commentarci, naturalmente insultarci. E t.me aprendo, sì, t.me 100 Celle Avengers, mi raccomando, 100 scritto a numero, perché chiaramente ci piace complicarci la vita, esatto. Quindi 100 Celle Avengers e scriveteci. Emanuela già c'è scritto comunque. Grande Emanuela Manu. Sempre sul pezzo. Grande Manu. Grande. Ma è finita qui, non abbiamo altri contatti, altri. Sì, Gizzi, cioè, tanto siete no, diventate non c'è mai. Ufficio stampa. Sì. No, Gizzi ormai non, cioè, dai, non lo citavo più, ma dico, abbiamo anche una pagina. Sì, abbiamo trovato i podcast. Ah, tu ti, chiaramente ti riferisci al. La pagina Instagram, scusa. Abbiamo la pagina, cioè, Instagram, no, volevo fare il sì, giovane. Sì. Che è Radio Forte, abbiamo 100 Celle Avengers. Addirittura. No, c'è sia il canale Instagram della radio, che è Radio Forte Prenestino, e quello di 100 Celle Avengers, che è appunto 100 Celle Avengers. Ma noi abbiamo fatto Instagram, ma non lo sappiamo usare. Va bene, perché vogliamo essere giovani, ma non lo siamo. Ma tu dai contatti, poi dopo spieghiamo le cose. Per esempio, il Telegram, volevo dire sempre ai giovani che invece le cose le sanno, che non è un canale. Il canale è quello sparone, spammone, che tu non puoi dire niente. Invece questo è un gruppo aperto, quello su Telegram, dove la gente si iscrive e ci può mandare a fanculo. È importante dirlo, perché sennò si dicevano soltanto avvisi, oh, sta andando in onda questo. Quello c'è, e c'è la Radio Forte centralmente, cioè Radio Forte forte canale che ti dice ogni giorno il palinsesto, e ci pensa Gabri tra l'altro a farlo. Sì, giusto? a volte. E tra l'altro, no, vai via. No, volevo commentare che il maestro ha studiato oggi. Oggi ci puoi vedere pure le sere. Stranamente preparato. Preparatissimo. Bravissimo. Comunque, prego. I podcast delle nostre delle puntate precedenti li potete trovare invece sul sito del Forte Prenestino. CSEA Forte Prenestino / Radio Forte. E non ha detto neanche www, quindi cioè, veramente si è preparata anche lei. Si è capito tutto alla perfezione parlandole sopra, ma va bene. Comunque. Niente, poi queste domande così a bruciapelo non me le fate più, però. Comunque, è il momento della prima, diciamo, canzone che andiamo ad ascoltare, che riprende un po' quello che voleva essere nella puntata scorsa il fil rouge della nostra trasmissione, ma che è stato oscurato da Virginia, perché no, dal fatto che noi siamo sempre rigonfi di contenuti e quindi non siamo stati nei tempi, e quindi quello che era il fil rouge non si è capito neanche che cos'era. Si parlava di mezzi di comunicazione nella poesia cantautorale, mo l'ho detto così. Rifletteteci mentre ci ascoltiamo il primo pezzo, che è Algoritmo. Il destino è solo una combinazione, un caso. Trovare i pezzi di sto puzzle che chissà dove sono sparsi. Con tutto sto via vai è già difficile incontrarsi. A forza di provarci, io le mie emozioni le ho criptate, le ho nascoste tipo in codice, le hai decifrate. La mia chiave era segreta, ma tu sei un hacker. Per la mia dieta sei una torta sucker. Ma quando parli girano la testa come eliche. Se fai le mosse giuste come un social media manager, sei in amore non ci sono regole. Sai che chi è più forte non ha paura di sembrare debole. Tu ti muovi così bene, dimmi come fai ad entrare senza passo che a schiamarmi fai. L'algoritmo al tuo ritmo, l'algoritmo al tuo ritmo, e mi rendi più leggero una versione light, e con te mi prende bene anche senza wifi. L'algoritmo al tuo ritmo, l'algoritmo al tuo ritmo. Se non sei numero uno vali zero in questo codice binario. Codice binario. E se il treno passerà una volta sola mi consola, tanto non è mai in orario. Tu invece è un tempo straordinario, sei un metronomo. La tua sola presenza mi chiude lo stomaco, sei il mio dietologo. Ma faccio finta tipo volpe l'uva, come se non hai l'ombrello e fuori diluvia. Convinti che per essere sicuri serva costruire muri e barricare le emozioni in una cassaforte. È solo una combinazione, con i tuoi numeri puoi andare oltre. Hai il passepartout per queste porte. Tu ti muovi così bene, dimmi come fai ad entrare senza passo che a sgamarmi fai. L'algoritmo al tuo ritmo, l'algoritmo al tuo ritmo, e mi rendi più leggero una versione light, e con te mi prende bene anche senza wifi. L'algoritmo al tuo ritmo, l'algoritmo al tuo ritmo. Girl tell me say she really love my hard drive. No Bluetooth, she really like it hardwire. For me deal without me, I have to check her profile. That's the only way to know if she's worthwhile. Make sure no say this a boy I've been a play. Be the next work and we don't do no delay. Girl you better know say everything on display. Watch your foreplay. That's why me have a what if I gig, a what if I gig to make she start flirt. A what if I gig, a what if I gig, that's what she is worth. A what if I gig, a what if I gig, so some me disperse. It's the love I tell her say hey. Tu ti muovi così bene, dimmi come fai ad entrare senza password a sgamarmi fai. L'algoritmo al tuo ritmo, l'algoritmo al tuo ritmo, e mi rendi più leggero una versione light, e con te mi prende bene anche senza wifi. L'algoritmo al tuo ritmo, l'algoritmo al tuo ritmo. Di nuovo in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, abbiamo sentito un pezzo di Willy Peyote featuring comunque un pezzo abbastanza fastidioso. Lui. È stato per me duro metterlo nonostante tutto, ma volevo mantenere il punto, e cioè il discorso che si faceva l'altra volta sulla comunicazione. Avete notato una certa, diciamo, inflazione di termini tecnici in questo pezzo, per caso? Noi eravamo molto spaventati dal fatto che non stessi arrivando, quindi abbiamo ascoltato, però siamo stati poco attenti. Era andato a fare pipì. Va bene, questo rappresentava nella scorsa puntata, diciamo, il punto di arrivo del fil rouge di cui si parlava, e cioè quando è che la industria, diciamo, del cantautorato decide che certi argomenti, certi topic diventano romantici, poetici, tali da metterli dentro canzoni varie. Quando è? In questo pezzo, come vedete, hanno sbloccato tutto, diciamo, più di questo che poi di. A parte, diciamo, l'uso della rima wifi, che negli ultimi anni, essendo che fa un po' inglese, quindi col wifi ci fanno un sacco di rime, ma comunque questo pezzo è proprio gonfio di cose che. Diciamo che è partita da qui la mia idea, quando fu di parlare di questa roba. Cioè, quando sentii questo pezzo la prima volta, nonostante ci fossero degli ammiccamenti che io capivo e sgamavo, come dice lui, nel pezzo odioso, pensavo appunto all'indietro. Quante altre occasioni abbiamo avuto di questo tipo di cose, cioè che l'altra volta ne abbiamo parlato soltanto in parte, adesso andiamo a ritroso da algoritmo, per esempio. Ti mando un vocale di 10 minuti. Il vocalone di 10 minuti, ma ancora all'indietro, questo è più, diciamo, che ha segnato un po' all'epoca, c'è stato il momento del. Scusate, l'ho presa lunga, mi sono scordato di tagliarla. L'importante è sentire questo. Ok, era il momento dell'internet, certo, quindi era questa roba dell'internet che andava molto. Hai fatto un salto dal vocale, ti dal mando vocale, dal vocalone WhatsApp all'internet. Ma perché il salto è ancora più indietro, perché appunto là mi sono detto, ma questa roba è cominciata anche prima. Cioè, quando a un certo punto Costanzo, perché è stato lui, ebbe questa idea geniale, come tante altre che ha avuto Maurizio Costanzo, si disse, ma questa cosa del telefono, no, aspetta, questa è mezzo milanese, mezzo Costanzo, non mi viene, perché la cosa era un produttore milanese che è sempre quello che sta avanti e sa tutti i concept da spingersi, però questo l'ha scritto Costanzo. Allora, il telefono, c'era l'invenzione del telefono, e quindi nonostante fosse una cosa, un mezzo freddo, una roba, qualcuno ci scrive un pezzo che parla appunto del lasciarsi per telefono. E questo pezzo era sempre non tagliato, mannaggia, ma i più esperti avranno già. Esatto, arrivando al concetto. Grazie Silly. Quando mettiamo queste cose a minchia sono là sotto, e quindi si gestiscono da lì, andando sempre a ritroso, gli anni 60, il telefono eccetera eccetera, si riempiva anche la vita degli italiani di macchine, e quindi sì, viaggiare. Va bene, sapevamo che comunque anche Ariel sarebbe stata d'accordo con questa cosa. C'è Ariel che, ragazzi, stasera è incontenibile, ve lo dico. Ripetere fra i contatti anche il fatto che questa puntata, oltre che in podcast, è disponibile poi anche decanizzata con un particolare plugin che noi fonici abbiamo. Mai vero. Che manda in controfase gli abbai del cani. Ma questo ne parleremo nella prossima puntata di Traumi Fonici. Andiamo avanti, anzi andiamo indietro nel nostro percorso di mezzi di comunicazione, Ariel. E amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E parliamo dell'epistola. E siccome sei a chiudere questa disanima di mezzi di comunicazione in poesia, ho un ritrovato che, cioè, a un certo punto mi sono detto, ho messo tutta roba mainstream che tutti conoscono, sono andato a scovare qualcosa di veramente sconosciuto, e andiamo a sentire. Ti mando telegramma, ti mando telegramma, ti mando telegramma, ti mando telegramma, ti mando telegramma, Cioè, addirittura il telegramma sembra sia stato pubblicizzato attraverso dei jingle in epoca antesignana all'invenzione della registrazione, se pare che abbiano inciso un pezzo sul telegramma. E concludiamo quindi. Non lo so perché l'autore è ignoto, abbiamo ritrovato dei documenti, siamo andati negli archivi più segreti e questo è quanto. Oh, prima di questi ci sono le pitture rupestri, Non si possono mandare per radio, però. Comunque vi ringrazio per avermi restituito, ringrazio Virginia per avermi restituito. Durerà poco. Ok, infatti proprio per questo noi adesso diciamo subito che Virginia oggi è arrivata arrembante con una serie di classifiche. Sì, oggi vorrei introdurre il fil rouge di questa puntata. E il fil rouge di questa puntata sono le top 3. Non abbiamo la top, sì. No, complimenti, però dico non abbiamo la sigla dei top 3, non abbiamo la sigla adesso. Perché top 3. Beh, fatela. Sembrava telegramma, top 3. Ok. E io intravedo un plagio. Bene, sì, infatti. No. Qual è la prima top 3 che comunque consta di appunto classifiche delle tue stesse rubriche, giusto? Esattamente. No, sennò la gente a casa non capisce. Esatto. Ok, vai. La prima classifica che andremo a vedere e ad ascoltare è la classifica di colpi bassi. Sigla. Eccala. Fra un po' la sigla. Quasi. Guarda che l'ha trovata, è utile che fai così, non fare quella che lui non sta trovando la sigla. Quasi, perché quasi. Non è vero. Perché piano, la chiamo piano. Sigla bassissima, esatto. È quello, la devo rinominare. Scusate, sigla! E state zitti! Oh, e andiamo a iniziare immediatamente la nostra rubrica sulle classifiche, praticamente quello che diventerà questa trasmissione, la puntata di oggi. E iniziamo con appunto i bassi di Natale. Ho trovato un po' di bassisti che si sono organizzati per fare le nostre canzoncine di Natale preferite. E iniziamo con il numero 3 in classifica, che è un bassista italiano di tutto rispetto, famoso e noto per la sua infinita versatilità. Il bassista è Faso e il pezzo è Natale allo Zenzero di Elio e le Storie Tese. Regali allo Zenzero, vacanze allo Zenzero, Gesù bambino di Zenzero, abbracci di Zenzero, dolciumi di Zenzero, bianco Natale di Zenzero. E al numero 2 della nostra classifica, solo perché si stava già offendendo, abbiamo ovviamente il nostro Paul McCartney. Paul McCartney, no. Eh sì, beh, è sempre lui. Tanto oggi ci sta. Le nostre puntate sono sempre piene di Paul McCartney. Quindi al numero 2 noi ritroviamo il nostro Paul con Wonderful Christmas Time. The mood is right, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. E al numero uno della nostra classifica, anzi della mia personale classifica del cuore, resta saldo e si blocca nella prima posizione il solito Joe Dart, ovvero il bassista dei Wolfpack, che se non ne avete avuto abbastanza andremo a sentire fra poco, con un pezzo fantastico che si chiama Christmas in LA. On Christmas morning, on Christmas day. quattro ragazzi su Radio Forte e queste 100 c'è la E sempre in diretta non siamo quattro ragazzi, in realtà siamo sei più quel bietolone di Iron Man. Sì, Iron Man, questo è il momento che tu aspetti con ansia. Ti avevo detto che un pochino di spazio per te c'era e questo è il momento di il grande ritorno. E niente, il ritorno della didattica 100 celle Avengers. Spegniamo subito le musiche. No, capito, un secondo, cioè facciamo guarda, ti giuro che è una roba corta perché oggi non avevamo tempo e non vorrei rubare tempo, ma comunque ti volevo dare sempre quei trick, quelle cose che te pide, porti a casa e poi te li giochi un'altra volta. Allora, ascoltami un secondo, ti dico che ti porti a casa la serata, stai lì che non sai cosa fare e ti fai un passaggio di questo tipo. Lo senti questo passaggio cromatico? Non mi stai a cogliere? No. Allora, cioè, stiamo parlando di un accordo maggiore che fondamentalmente poi mi passa a essere major 7, a sottolineare la settima maggiore. Bravo. E poi la settima minore. Sì. Ora, a te magari non ti sembra di ricordare niente, ma a me sembra, forse anche ai nostri amici, di ricordare diverse cose legate a questo tipo di passaggio armonico, caro il mio bietolone. Ma tu forse non hai sentimenti per capire questa cosa. Cosa? Ora basta. Basta, calmati. Questo era soltanto Iron Man, cioè era un modo per dare un gancio a un'altra rubrica. Io forse non te dovevo avvisarti, però le riunioni di scaletta. Ho capito, ma le cigni di scaletta sono rapide. Nell'ultima mezz'ora si decide tutto, quindi avevo deciso di fare il lancio di cigni di ballacà così. E stiamo per dare la linea. Scusa, ti giuro. Cioè, adesso mentre va bene, Silvano ricompone il mixer, che è bellissimo. Rimasto qualcosa, spero. Sì, sì. Io cerco la sigla che non trovo più perché mi hai buttato per terra il computer. No, capisci che adesso deve partire cigni di ballacà. Sigla! Ma non lo senti che è uguale ai cigni del Balagà? Ah, è passata la tensione qui e arriva un'altra tensione. Prego. Ben ritrovati ad una nuova puntata di Cigni di Balagà. E la rubrica. la rubrica. Io l'avevo detto che il sabato sera è pericoloso fare queste dirette. Comunque, non indugiamo. Non fare così. Grazie Iron Man che mi sostieni sempre. Io ero rimasta, diciamo, agganciata un po', perché come sapete, insomma, Cigni di Balagà, il suo stesso nome lo deve proprio a questo caso famosissimo, forse il più celebre, popolare e sputtanato caso di plagio musicale tra Albano e Michael Jackson, questa insomma nota controversia. Ma io, ecco, quindi sono sempre anche fedele alle istanze del popolo, giusto Suonone? Quindi giusto, ero un po' rimasta a quello che ci stavi raccontando, questi accordi Major 7 che diventano, aiuta, dal mare maggiore. Allora, devo dire, sei diversa, sei cambiata. Sei più affabile, più va bene. A parte le minchiate, le istanze, sì, del popolo, sì, ecco, facevano riferimento a taluni pezzi che abbiamo trovato essere, perché io ho trovato delle assonanze, quindi insomma non siamo proprio in ambito plagio, in ambito esatto di plagio, quindi però non ci vuoi attaccare la pippa giudiziaria. No, per questo Natale ho deciso. Mannaggia, di un po' come quando a scuola non ti lasciano i compiti e tutti quanti allora non si parla di, ecco, andiamo su cose leggere, più frivole, per cui ecco. Però ci tenevo a far sentire questa assonanza, perché mentre ci parlavi di questo trick, diciamo, il trick musicale. Allora, il trick del passaggio dal re maggiore al re maggio 7 e re minore settima, io ho individuato in effetti due pezzi che calzano proprio bene con questo trick, con questo discorso. Molto bene. Volevi lanciarli? No, sì, volevo lanciare l'ordine al ritroso un'altra volta per i giovani. Per i giovani io lancerei quella giovane, perché i giovani potrebbero aver sentito quel passaggio armonico qui. Ma come, cioè, giovani? Ma che stai a dire? Io stavo al liceo, c'ho 40 anni. Quando noi eravamo giovani. Non conoscete ancora il termine di paragone Y. Questo è il termine di paragone X, che risulta essere giovane rispetto a Y, che arriverà dopo. Comunque, va bene, Kiss Me, viene voglia di baciarsi a Natale. Se si è giovani. E poi quelli ancora meno giovani ricorderanno invece. Che è tutta un'altra pasta. Giovani su giovani. Comunque sì, sempre al di là dell'età, insomma, però ci riecheggia un po' questo. Sempre un re maggiore, appunto. Che poi Major Seven, che esatto. Poi. E te sento. Sentiamola. No, sentiamola, mentre comunque introduci quello che veramente oggi volevi trattare. Va bene. Io sono qui con te. C'è Pino, ci sono io, c'è Daniele. Va bene. Allora, oggi parliamo di fatti. Fammelo fatto. Volevo parlare di questo fatto che, insomma, oramai è riportato da tutti i rotocalchi, lo leggiamo ovunque, in ogni dove si parla di diritti d'autore, ecco, quindi il campo è sempre più o meno lo stesso. Sì. E parliamo di Bruce Springsteen in questo caso, perché come forse avrete letto di questi giorni la notizia che Bruce Springsteen avrebbe venduto i diritti delle sue canzoni alla Sony per 500 milioni di dollari. Questa è la notizia. Quindi il plagio è che l'avevano già fatto i Beatles. Il plagio, ecco, se proprio vogliamo mettercelo, ficcarcelo dentro a tutti i costi. Sì, perché in effetti non è il primo. Posso mettere una cosa a tema intanto che continui? Sì, mi dovevi anche passare su Bruce, naturalmente. Cioè, vabbè, cioè. Sottolineo i miei errori stessi, prego. Dicevo che non è stato l'unico, soprattutto negli ultimi tempi, a fare questo tipo di operazione, e quindi ne abbiamo anche parlato in qualche precedente puntata. Abbiamo parlato di Bob Dylan, se non sbaglio l'avevamo accennato, come anche Neil Young. E Bob Dylan ad esempio di recente ha deciso di vendere alla Universal Music l'intero catalogo e quindi i diritti sui suoi brani, e questa volta è toccata a Bruce Springsteen, per l'appunto. Springsteen non c'entra niente in questa storia. Ah, vabbè, non mi toccare Springsteen. Sgambetto a Gabri. Vabbè, al di là di farvi questa storia su, che chiaramente tutti conosciamo. No, non perdere animo, vai, facci la storia. Oh, volevo dirvi solo quello che già vi accennavo poco fa, che ho scoperto che la mamma di Bruce Springsteen è italiana, ma precisamente dai, sì, giura. Di origini italiane ed è napoletana in particolare. Sì, ma io invece la signora Maria. La signora, ma no, si chiama Anna. Cioè, Anna. Veramente Centocelle Avengers va a fondo alle storie, comunque. Sì, si chiamava Anna. E niente, era anche segretaria in uno studio legale, se proprio la vogliamo dire. Ah, pure collega. Quindi vi siete trovati. Sì, questa storia, questo aneddoto mi ha incuriosito, ci tenevo proprio a riportarlo. Ma te l'ha offerto un caffè? No, non mi ha offerto. io poi quando hai finito ti volevo chiedere una cosa su sta storia qua, perché. Sì, vabbè, vediamo se ti anticipo, perché rispetto, mi sono un risponde. Attimo persa. Ecco. Ci ho detto, quindi dicevamo che Bristing in questa cupa epoca. Ciao Bruce. Chiamalo Bruce, te prego. Hai unito il nome e il cognome, sì. No, non c'è problema. Vai avanti. Ha fatto come tanti e quindi ha venduto i diritti delle sue canzoni. Ora, nel caso di suoi precedenti, come abbiamo detto, Neil Young, Bob Dylan. Sì. Sappiamo esattamente che tipo di accordi, ecco, di negoziato c'è stato. In questo caso invece la notizia ancora è stata riportata da Billboard e dal New York Times. Il ma Bill. Esatto, il grande Billboard. Ma non ha ancora carattere conferma. Ufficiale. È un e rumor. Quindi, esatto, il rumore, quindi tutto quello che si sta dicendo più o meno in questi giorni, in queste ore, è che tipo di diritti avrà venduto, ecco, vista tutto, dal tutto, nostro tutto, punto. Tutto o qualcosa si è tenuto? Sì, il catalogo è stato venduto per intero. Non si sa però quali tipi di diritti sono stati venduti, ecco, probabilmente questo lo dico perché tutti quanti si preoccupano adesso. Allora sentiremo per esempio il suo pezzo, uno dei suoi pezzi lo potremmo Born sentire in the USA. Esatto, e come colonna sonora di uno spot o di una pubblicità. Questo ancora non è detto, perché magari avrebbe potuto vendere, probabilmente avrà venduto i diritti di pubblicazione alla Sony, ma non quello di elaborazione, ad esempio, di cui parlavamo la volta nella scorsa puntata dei Cigni di Balacà. Ecco, questo per dare la nota, sempre l'aneddoto tutto, legale. Cioè, l'utente che medio gli dicevi molto. Che si è venduto tutto il catalogo, stava no, ah, davvero, mo se gli dici no, però forse quelli di pubblicazione, le cose, è tenuto, cioè, allora non è cambiato niente, sta notizia, sto rumor. Il rumor comunque al momento riguarda i diritti di publishing, ecco, quindi la Sony sarà... che diciamo che ha questa occasione, si è comprata questa occasione unica di utilizzare e far riascoltare i brani di Bruce, e lui in compenso ha questa occasione di avere, ha incassato una liquidità la Sony, enorme, la stessa ovviamente. Di Michael, la stessa dei Beatles, sempre sì. Quella Sony lì. Sempre quella Sony lì, esatto. Quindi poi parliamo con Betta, però questo esatto. Adesso lo diciamo per lanciare. Ma ci torna qualcosa? Sono un infiltrato. No, vabbè, cioè, io voglio dire, io... Ti ricorda prego. Qualcosa, sì, questa storia. Parte di noi non crede a questa roba, il vecchio Bruce non avrebbe mai fatto una roba del genere, anche se bisogna dire che effettivamente questo fenomeno c'è stato in pandemia, pare, cioè proprio parallelamente con, cioè, veramente una sperequazione di valori a quello che hanno fatto molte attività di esercenti che in pandemia non hanno potuto lavorare, se la sono venduta. Però quando la tua attività è appunto un intero catalogo, tu praticamente ti prendi subito una grossa somma, rinunci a farci ulteriori soldi, ma stiamo a parlare di 500 milioni di cazzo di dollari, esatto. E quindi dici vabbè, sto 500 e sto, come si dice, a 7,5 a Capodanno. E vabbè, io volevo dire che non solo io non ho creduto a questa cosa, mi sono andato a cercare documenti, cose che provassero questa cosa, e ho trovato più roba di segno opposto, roba che fa pensare che invece Bruce abbia mantenuto il punto e quindi questa cosa sia un rumor. Però con questa occasione quindi lancio quella che è la fiction che tutti volevano che tornasse a Centocelle Avengers, quella di Paul e Mickey, nemici e amici, ricordiamo il rapporto un po' bizzarro che si creò fra Michael Jackson e Paul McCartney, che si incontravano più volte parlando di cosa fare dei propri soldi, in poche parole, perché tutti e due ne avevano abbastanza, chi era in ascesa, chi era in discesa, e appunto poi da lì, come sappiamo, nacque il consiglio, quello dato per sbaglio da Paul McCartney a Michael: ma perché non ti compri i diritti di qualcuno? E Michael si comprò i diritti dei Beatles. Questa è tutto, diciamo, la genesi di questo rapporto, che poi però invece è andato avanti da quella chiacchierata. Noi abbiamo sentito le altre puntate, adesso sentiremo questa e poi ne commenteremo insieme. Adesso ti faccio vedere io come spendo i miei soldini. Michael? Woohoo! Michael! Ti piace come speso i miei soldini? Forse non dovresti correre così, Michael. Woohoo! Dobbiamo sbrigarci. Abbiamo appuntamento con Paul. Ho qualcosa di grave da comunicarti. Ma dove siamo, Kit? Ti ho pagato un sacco di soldini e ci siamo persi. Perché Paul mi ha dato appuntamento qui? Ho rilevato un veicolo in avvicinamento, Michael. Sembra un vecchio pick-up. Oh, ecco, te sbarcato. Molte grazie. Arrivederci. Ciao. Molte grazie. Eccoci arrivati. Oh, oh, hai finito i soldini? Non essere antipatico. Ho solo chiesto un passaggio. Paul, siamo nel deserto. Ma cosa... Non fare lo stupido. Ti ho già detto che siamo cacciatori. Woohoo! Hunting. Oh, oh. Ma Paul, io sono contrario alla violenza. Oh, come al solito, non hai capito. Siamo cacciatori di diritti. Oh, ora è chiaro. Ma siamo nel deserto. Stiamo andando a far visita a un vecchio amico americano. Oh, oh. E lui non ama la grande città. Preferisce rimanere incognito. Oh, davvero? Ma Paul, chi stiamo andando a trovare? È un artista molto famoso qui. Ti dimostrerò che puoi comprarti i diritti da un altro invece di prenderti i miei. Oh, oh, ma... Shh, siamo arrivati. Il tuo amico vive in un camper? Come i veri americani. Paul, lascia ma... parlare me. Hello? Hello? Che carino. Vai pure a dire al boss che siamo venuti a proporre un grande affare. Oh, oh. Oh, Michael. Vedrai che Bruce ci... Oh, oh. Go away. Bruce. Bruce. Sono Paul. Go away. Volevo presentarti il mio amico Michael. I don't fucking care. Ma volevamo... Volevamo parlarti di un affare. No way. Molto vantaggi... Oh, oh, oh. Never. Next is for you. My dear never, signor Bruce. Potremmo fare molti soldini. Ti avevo detto di lasciar parlare me. E sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers. Questo era quanto riferito a una visione su Bruce, a quella che è la verità. A quella che è la verità. Ma tu sei sicuro che è andato così? Io ho solo ricercato negli archivi. Ah, ok, uno spaccato di vita vissuta dell'FBI, queste robe. Scusa, scusa. C'è qualcuno che si è messo il microfono addosso nei momenti giusti. Io non c'entro niente. Vabbè, effettivamente Paul è della redazione. Ma non so perché monti sempre la sigla, questo qualcuno. Cioè, comunque è un documento inedito. E... cioè, mi facevi dei cenni rispetto alla scaletta come se si dovesse saltare, giusto? Perché in realtà io avevo freddo, avevo pensato che siccome voi avete un bue al posto del cane, poteva sì. venirci qui a scaldare. E invece mi sono ricordato che il soppalco di Radio Forte 100 Celle Avengers alle 22.40 del 18 dicembre 2021 non permette ai cani di salire. E quindi noi ci ascoltiamo questo pezzo di Elio e le Storie Tese, pensato per riscaldare il Natale. Tutti quanti sono buoni, chi fa l'albero e chi fa il presepio. È la notte di Gesù. Per fare un bel presepio ti ci vogliono i pastori, una capanna, Giuseppe, Maria ed il piccolo Gesù. Per esempio un bel presepio può costarti una fortuna se ci metti l'asinello con il bue riscaldante. Sta scendendo già la neve, buon Natale a tutti quanti. Rottamate il vecchio bove e passate al riscaldante. Il presepio è fantasia, ma ti costerà una follia, perché un bove riscaldante costa veramente tanto. Arrivano tre re magi guidati da GPS, donatori di doni e regali. Ma la mirra che cos'è? Gomma resina aromatica estratta da un arbusto del genere, commifora famiglia Burserace, che è usata dai re magi e nelle imbalsamazioni. Sta scendendo già la mirra sulle mummie del presepio. Non vi avevo ancora detto, l'ho ambientato nell'antico Egitto. Una mummia fa pastore, l'altra mummia fa il pescatore, una mummia fa il laghetto, sono mummie molto brave, ma hanno un piccolo difetto, questo, gli dai un dito e ti prendono un braccio, lo nascondono nel muschio, e lo devi ritrovar. Non perdere la calma, tieni conto che è una mummia, e se non ritrovi il braccio chiama il numero verde. Pronto, qui emergenza mummie, dica. E non ritrovo più il braccio. Capisco, gliel'ha nascosto dentro al muschio, immagino. Ma scusi, come fa a saperlo? Buon Natale. Sì, ma adesso come faccio? Chi me lo riattacca il braccio? Sta scendendo già l'incenso. È un Natale molto intenso. Sta scendendo pure l'oro. Buon Natale tutti in coro. Sta scendendo già la birra. Mi ha prescritto. Guarda che presepio imminente. Di nuovo in diretta alle 22.44 su Radio Forte 100 Celle Avengers, è il momento della cultura. E dalle retrovie. Eccomi. Avanti. Eccomi. Sono qui. Basta, faccio una mozione, dobbiamo allargare il tavolo o allargare il tunnel, fare in modo che la maestra Viola sia davanti a me, perché sennò non vedo quando devo partire con la musica. Veramente, a quanto ho capito, Viola andiamo. Si voleva arredare il suo angolino. Sì, infatti, in realtà, stavo pensando. Poi le piace, stanno lì, si fa le storie su Instagram. Io mi metto qui così e vi guardo le spalle, ragazzi. State tranquilli, ci sono. No, metterai che è bizzarro. Ti servirà una monitoria almeno, no? Un monitor, uno schermo. Sì, abbiamo pensato a uno specchio, così vi guardo, giusto, capito? Così ti subito giri tu che mi dai, cioè, capito? Posso dire una cosa solo prima che inizi il momento dell'angolo della cultura, perché ci hanno scritto sul canale Telegram, quindi insomma di queste cose che succedono in diretta, quindi insomma quindi siamo appresso ai tempi. Dillo, esatto. Dillo. No, perché la nostra Manuela ci segnala sul gruppo Telegram, appunto ci ha appena scritto per dirci che mentre ascoltava la puntata, Facebook le ha proposto un filmato di Stanley Olio. Gomblotto. Attenzione. Vabbè, senti. Sta succedendo qualcosa. C'è sta pure 5G qua. Ma che non hai il permesso per permette la nostra diretta. Siamo in 5G, va bene? No, non è vero. Ragazzi, questo magari è il booster, va bene, volevo dire potremmo questo, adesso possiamo tornare al momento della cultura. Sì, però ecco. No, grazie Manu, che comunque posso dire che è il nostro abbonato in prima fila. Sì, okay. Sì, infatti. Detto ciò, Viola, lanciati la sigla. E sì, volevo salutare, buonasera a tutti i miei alunni. Ciao. Alunni maestra. Grandi, maestra. Ciao piccoli. Va bene, partiamo, sigla. Lasciatemi leggere, sentire questa poesia. Vorrei, e non so leggere, ho voglia di sentire questa poesia. Eccoci, allora questa sera parleremo di un connubio tra cantautorato e poeti. E parlerò di Roberto Vecchioni, che diciamo immagina il suo, un incontro con il grande poeta Sandro Penna. E nel suo, diciamo, questo, tutto ciò in una canzone tratta dal suo album Samarcanda. E Roberto Vecchioni, diciamo, è, vabbè, tutti lo conosciamo, ed è però uno dei cantautori italiani che più, diciamo, marcatamente ha unito la musica con la letteratura. E prima, infatti, di essere un cantante, diciamo, Vecchioni o professore di latino e greco, e infatti nelle sue diciamo canzoni si evincono diverse citazioni letterarie. Uno di questi appunto è con il poeta Sandro Penna, e diciamo è un modo per conoscere appunto dal punto di vista di un grande cantautore, un poeta fondamentale per la storia del Novecento. Sandro Penna è uno dei tre poeti della linea antinovecentesca o sabbiana, come diciamo è stata coniata in questo termine da Pierpaolo Pasolini, per identificare, diciamo, questi poeti che non aderirono all'ermetismo e rifiutavano il simbolismo. E diciamo le poesie di Sandro Penna, così come quelle di altri poeti, sono caratterizzate, diciamo, da un linguaggio semplice e chiaro, per una volontà di esprimere cose oneste e vere. E diciamo Pasolini lo chiamava il ribelle assoluto, e con lui, diciamo, si unì a questa, alla tematica tanto cara a Pasolini, che era la tematica omosessuale. E il contributo, diciamo, di Sandro Penna è proprio quello appunto che diede questa spinta, no, di questa tematica comunque ancora un tabù nei primi del Novecento. E diciamo che Sandro Penna ha una poesia molto semplice, monotematica, e adesso citerò una di queste poesie, che sono tutte molto brevi, quindi maestro, attenzione. Felice chi è diverso, felice chi è diverso essendo egli diverso, ma guai a chi è diverso essendo egli comune. Ok. L'ho finita. Detto, sì, era brevina. Era brevissima. Era brevissima. Sì, ma sono tutte così, sono molto brevi, ma concise e chiare. Però, diciamo, l'importante era appunto evincere questa la tematica appunto dell'omosessualità. Quindi la canzone invece di Roberto Vecchioni narra di un incontro appunto immaginario con l'autore Sandro Penna, e la dedica, diciamo, è ancora più speciale perché questa canzone uscì nel 1977 ed era gennaio di quell'anno quando appunto Sandro Penna perse la vita. Vecchioni quindi immagina di dialogare con lui all'interno di un bar molto particolare con clienti di ogni tipo, e un aspetto davvero interessante della canzone, che oltre a rappresentare appunto questo dialogo immaginario con il poeta Sandro Penna, cita anche alcuni versi del 10 agosto di Giovanni Pascoli, quindi un tributo molto toccante. E partiamo quindi con la canzone di Roberto Vecchioni, che è intitolata Blu e notte. Ma quindi Vecchioni è amico di Penna? No, diciamo non erano amici. E il vecchio con gli occhiali di tartaruga mi regalò 6 sigarette e mi disse: guarda, ho tante porte indietro, tante porte avanti, ma è sempre la stessa cosa, i bar sono tutti uguali. E il barman si toccò l'orecchio come per dirmi: non ci faccia caso, è pazzo. E io gli avrei preso la testa, gli avrei fatto mangiare il banco. E il vecchio capì e mi disse: perché te la prendi tanto? Uscito di qui tornerai a casa come tutti. Non dirmi che non hai anche tu una bella famiglia che ti aspetta. E quello che in fondo vale è una figlia e un po' di stima per il mondo normale. Hai mai perso un ragazzo, ragazza? Ha detto ciao e è andato. Ha detto sono stanco da amare. È diventato abbastanza lontano su quella sua bicicletta. Quando ero giovane dicevo, perduto. Certo, piangevo, ma perduto lui ce n'era un altro. Però da vecchio pesa il respiro. Lo vedevo giocare, lo guardavano tutti. Quante volte ho pensato, basta, sto male. Quante volte ho detto, basta, camminami avanti. Ma il fanciullo che avanti a te cammina e non lo chiami, non sarà più quello. Radio Forte, 100 Celle Avenger, è molto meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. E sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, ho cercato di svegliare il can che dorme proprio quando Virginia sta per lanciarci la nostra nuova classifica. La nostra nuova classifica che per stavolta e in questo momento riguarderà la rubrica Video Dance on the Radio. Sigla! Batmo Degage. Bravo. Ma Virgi, che hai? Ti vedo giù. Ma come? Io avevo pronte le coreografie, i costumi, trucco, parrucco. E chi le vede mo ste cose? Ah. Senti io. Cos'è? Il musical senza la dance. Capito? Ok, Virgi. Oh, Video Dance, la rubrica che chiede molto alla nostra immaginazione. Sì, esatto, ma potrete tranquillamente andarvi a guardare tutti i video di cui parleremo alla fine della nostra puntata. Ma come possono mancare nella rubrica dei video ballati i video di Natale? E quindi ho preparato la classifica, ovviamente, dei video ballati di Natale più belli. E partiamo con la numero 3, in cui troviamo Gwen Stefani e suo marito Blake Shelton. Se volete vedere i bambini talentuosissimi, andate a visionare il video di You Make It Feel Like Christmas, di cui sentiremo un estratto in questo momento. Sweet gingerbread made with molasses, my heart skipped in a reactive. Can't believe that this is happening, like a present sent from God. Sleigh bells singing, hallelujah, stars are shining on us too. I wanna thank you, baby. You make it feel like Christmas. E al numero 2 abbiamo un famoso trigger radiofonico per questa trasmissione, soprattutto per chi è alla mia destra. Da quando è stata messa nella rubrica degli scartati non ne abbiamo più potuto fare a meno. Se volete vedere un vero spettacolino di Natale nordico, su al nord andiamo ad ascoltare Daddy Freyr con Think About Things. E a riprova che questo pezzone è ballabilissimo e ballato benissimo, stavamo anche qui a ballare in redazione. Mentre al numero 1 andiamo ad ascoltare un pezzo in cui c'è la coreografia, c'è il feat degli Earth, Wind & Fire, e quindi è andata dritta prima in classifica, Holidays di Meghan Trainor. It's a celebration. Get ready for the holidays. It's a celebration. So baby, don't you stop. Sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, proprio adesso se ne è sfilata la prima ora di incredibile divertimento insieme a voi amici. Facciamo un po' di Rabarbaro. Di fine anno. Ok, che cosa succede adesso? C'è la rubrica che parla degli scioglimenti, delle reunion dei gruppi. E come si chiama? Si chiama Rise and Fall, e io ho già sotto mano la sigla. La nostra relazione è terminata. Insieme a te non ci sto più. Lasciamoci. Lasciarsi un giorno. Vorresti dire addio. Lasciarsi. Io ci sto. Bye, bye, bye. e improvvisamente stiamo di nuovo insieme, stiamo insieme di nuovo, che bellezza, la nostra banda vale di più. L'ho fatta, l'ho fatta. Ricominciamo, ci siamo di cibo, c'è un fuoco sotto la cenere, ci saranno chi ti ha aspettato, ma che succede? E molto bene, Rise and Fall, la rubrica che tratta gli scioglimenti e le reunion dei gruppi. Io avevo sotto mano la sigla, ma non ho sotto mano l'argomento, nel senso ce l'ho, ma in realtà è uno di quegli argomenti che mi sfiorano a livello, diciamo, anagrafico. Ero piccolo, non me li cacavo, però c'è stata una big reunion di cui non potevamo così esimerci dal parlare. Si tratta degli ABBA. No, wow. Cioè mi sono... Allora, ho capito una cosa, che quando tu tocchi Iron Man io perdo la chiedo lista. Scusa. Esatto, bravo, hai visto? Dobbiamo correggere questa cosa. L'ha rifatto. A rifarlo? No, non lo fare perché volevo dire ABBA. Ok, rapidamente, questi sono gli ABBA, che quindi entrano nel nostro immaginario soprattutto con questo pezzo e anche con quell'altro. Oh mamma mia, esatto. Che cosa hanno fatto? Si sono riuniti dopo 40 anni e non è che dici ne parliamo perché noi andiamo a scovare il business. Qui il business è proprio palese, hanno costruito a Londra un palazzetto che è praticamente adibito a far esibire gli ABBA in uno show che non la chiuderei del tutto, sono stato io, sì. Comunque vabbè, sì, sono stato io, no ma era anche giusto, perché in effetti gli ABBA sono questi oggi, questi sono gli ABBA riuniti, così entriamo subito nel tema. Dicevo, per sentire questo pezzo qui e gli altri della nuova playlist degli ABBA riuniti, niente, ho sempre la rimetto così al loop, si è rotto tutto, ok. Dovete andare in questo palazzetto di Londra dove loro vengono proiettati con un ologramma, con 100.000 proiettori che costano pochissimo. Che meraviglia! Come erano da giovani. Cioè, sì. Hanno fatto questa roba che costerà pochissimo anche il biglietto d'entrata. Quando stavano ancora insieme. Quindi non è che è una reunion così che passa in sordina e noi ne volevamo parlare. Ma in realtà io ne parlo degli ABBA perché c'è questa roba che hanno fatto. Rimetto Dancing Queen così. Ma si bloccherà anche Dancing Queen? No, perché hanno fatto un musical loro e quindi io, appassionato di musical, chiedo il vostro aiuto perché del loro musical non so niente, non ho mai capito bene la storia, oddio, madre, padre, di cosa. Ma di mamma mia. Ma no, cioè, rapido, se tu riuscissi a dirlo in una parola sola, tipo Supercalifragilisticexpialidocious. No. Ok, altrimenti io passerei semplicemente a dire che il musical a me piace, quindi mi informerò su che succedeva realmente nel musical degli ABBA, ma vorrei ricordare a tutti voi, almeno a 4 quinti, 5 sesti di noi, che abbiamo partecipato noi a un musical e che questo musical ce lo siamo forse scordato perché è nella puntata 12 che nessuno ascolta più in podcast, comunque su radioforte.net, sì. Andiamo ad ascoltare il primo esperimento di musical radiofonico a 100 Celle Avengers. Amiche, amici, è con piacere che prima ancora di sentire le vostre ideone vi lancio la mia più grande scommessa. Dopo Dumbo l'elefantino volante, noi faremo il primo musical radiofonico della storia. Un musical in radio, come devi in mente? Se vi ho riuniti oggi è per proporvi di sperimentare insieme a me le potenzialità del mezzo radiofonico, unite alla magia del musical. Non credo che tu ci abbia riflettuto bene, quelle sono opere monumentali e noi non possediamo neanche una melodia, un tema, un'armonia che regga tutto sotto sotto. Basta, adesso perdo la pazienza. Io che volevo parlare di danza. A me chiamate solo in emergenza. E ed io di voi non riuscire a far senza. Ma se è fumato oggi, oh. È pazzo, è folle, dove finiremo? È pazzo, è folle, dove finiremo? Credetemi, pensate a che successo stanno avendo i podcast, le audioserie, le minchiate stimolando la ghiandola essiccata che una volta era la nostra fantasia. Possiamo immaginare tutto se solo lo vogliamo. Ma vedi, dannate. E vabbè, oh. Ha scimmiottato tutto la commedia nera e rosa e adesso vuol convincerci che radio sia la stessa cosa. Fidatevi, stavolta sarà tutto assai diverso. I balli, le coreografie, l'orchestra e tutto il resto saranno nelle orecchie di chi sente tutto questo. Così possiamo permetterci di scriverlo sul cesso. Lo saremo i pionieri del mezzo, nessun altro imitarci potrà. Voi seguitemi, non sono pazzo, sarà un grande successo. Non hai di meglio, non sei sbaglio, non ha nessun altro invitarci potrà. Crediamo che il mondo sia pazzo, ma un grande successo sarà. Stai ascoltando Radio Forte e questo è Centocelle Avengers. Avengers. Avengers. Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Forte, forte, forte, forte. Dalla scuola di musica performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta, che non mai, guasta non mai, guasta mai, guasta mai. Centocelle Avengers, la musica si difende. Il nord. Scusate, volevo mettere paura a tutti. Ma è partito il trailer? No, il questo teaser. Era il teaser. Questo era il teaser. Il trailer è un'altra cosa. Questo è l'altro teaser. Sto perdendo colpo. Del nerd. Oh mio Dio, ma cosa sta per succedere? Sta quindi succedendo di nuovo. E quindi sigla. Eccola. Vuoi questa invece in così a tradimento. L'ho fatta troppo veloce. Non era la sigla. Patchmo sta per arrivare la sigla. No, nemmeno. Quasi. Sono un grande. Il mio pinguino di ceramica nello studio guarda sempre verso Radio Forte Centocelle Avengers. C'è una rubrica dotta che si chiama Nerdland. Come l'ha chiamato? Nerdland. Grazie da Respect su Centocelle Avengers. C'ho troppe sigle. Sì. Ma buonasera, buonasera, miei piccoli nerd. Come state? Come state? Ben trovata. Bene, bene. Ben trovati. Stasera andiamo a toccare un mostro sacro, Arancia Meccanica. No. Ammazza. Eccola. Una cosetta leggerina, però la tocco piano. No, non vi dirò di che parla il film e non ve lo consiglierò, perché non averlo visto è come non aver letto Il Piccolo Principe. E se non l'avete ancora fatto siete delle brutte, brutte persone e non potete più seguire questa rubrica. Quindi se non l'avete visto, Raus, veloci, andate a guardare Arancia Meccanica. Quindi parliamo direttamente della colonna sonora. Il film utilizza un vero e proprio Beethoven sinfonico che si basa principalmente sulle interpretazioni del sintetizzatore Moog della musica di Wendy Carlos e del suo produttore barra partner musicale Rachel Elkind, che conferiscono alla musica una qualità strana, inquietante e futuristica. Naturalmente, ora, i synth sono all'ordine del giorno, ogni bambino può comprarne uno a due soldi, preprogrammato e con centinaia di suoni, ma tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70 esistevano solo una manciata di sintetizzatori, dei bestioni enormi, ingombranti, difficilissimi da usare, e relativamente poche persone avevano sentito, figuriamoci poi apprezzato, le loro tonalità elettroniche. Tanto che persino alcuni puristi della musica classica rimasero indignati della radicale reinterpretazione di Beethoven da parte di Wendy Carlos in Arancia Meccanica. Wendy, nata nel Rhode Island, si interessò all'elettronica sin da piccola, persino vincendo una borsa di studio alla Westinghouse Science Fair per aver costruito un computer a casa, ragazzi, mica bruscoli. E laureata in un ibrido di fisica e musica, ha svolto il suo lavoro di master alla Columbia nei primi 60 e ha studiato alla Columbia Princeton Electronic Music Center, il primo del suo genere negli Stati Uniti. Figuriamoci che poteva fare una così con in mano il sintetizzatore di Robert Moog. Non fu un lavoro semplice, perché ai tempi i synth non erano polifonici, e quindi Wendy e Rachel dovettero fare un lavoro molto di fino per ottenere il suono finale, registrando innumerevoli tracce separate. Addirittura, per creare un singolo accordo c'era bisogno di registrare tre tracce separate da poi da sovrapporre. E aggiunsero a questo l'utilizzo di un nuovo strumento del quale contribuirono di fatto alla nascita, il vocoder. Con un nome creato combinando voce e codificatore, il vocoder è un dispositivo progettato per analizzare il parlato e poi sintetizzarlo. Il primo venne creato negli anni 30 dalla Bell Labs per le comunicazioni criptate durante la Seconda Guerra Mondiale. Eh sì, è la triste storia del mondo che ogni invenzione all'inizio serva per fini bellici, purtroppo. Ma furono i nostri due pionieri, Carlos e Elkind, negli anni 60, a svilupparne il primo modello adatto all'uso musicale. Nel film viene usato ad esempio per la parte vocale della nona sinfonia di Beethoven. E a questo punto vi lascio con un assaggio dei synth di Arancia Meccanica. Musica, maestro! Cento celle avenge. Oh ma! E ed erano molto natalizi i synth di Clock Orange. Speriamo che non ci siano ascoltatori che di sabato sera vanno a prendere a calci qualcuno, ma a parte questo comunque bisogna conoscere anche certe sonorità. Siamo contenti e ringraziamo la dotta Betta per averci portato un prezioso Nord del Nerd, e andiamo avanti con un'altra classifica. Ciao! La classifica delle classifiche? La classifica, beh, se la vuoi proprio chiamare così, insomma, abbiamo la classifica di più famosi di Gesù. Sigla! Lo vedi perché dico la classifica delle classifiche? Perché tu sei addirittura detentrice di un pulsante di rapido lancio della sigla. Pulsante. Non tutte le sigle lo hanno, tu hai un pulsante con scritto Beatles dove vuoi far partire. Vabbè, basta. Solo per avere un pulsante con scritto Beatles, bene, per ricordare a tutti quanti, insomma, chi comanda. Ecco. Andiamo col classificone. E il classificone è il seguente. Beh, innanzitutto volevo parlare di che cosa riguarda questo classificone. Questo è il mio personale. Uffa. È il mio personale. Guarda, mo non lo faccio più. È il mio personale regalo di Natale ai due fantastici componenti dei Fake Four che sono qui alla mia destra entrambi. E quindi io volevo appunto regalargli questo momento di gloria, perché è un po' di tempo che non li ascoltiamo. Diciamo che possiamo partire subito con la classifica, e dall'album Fake Revolver abbiamo la numero 3 della classifica, And Your Bird Can Sing. E al numero 2 abbiamo un grandissimo pari merito tra due duetti, punto saldo, il nostro Silvanone nelle vesti di Fake George con I've Just Seen a Face e Blackbird. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I got on the world to see with Matt. Blackbird singing in the dead of night. Take your sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. E al numero 1 abbiamo una vittoria schiacciante annunciata, non c'è stato nemmeno bisogno di fare votazioni, perché la grandissima Obladi Oblada è al numero 1 della nostra classifica. Prego. Oh, couple of kids, one in the yard, and just one of only joy. Happy ever after in the marketplace, Molly let the children in the hand. Yes, Mercedes and Omen does a pretty face, and in the evening she's singing with the band. Hey! Oh, Bobby! Su Radio Forte 100 Celle Avengers sono le 23:22 e la redazione si è svuotata. Siamo quattro, dai, manco così no, male. Vabbè, diciamo... dobbiamo un attimo metabolizzare il nuovo orario, dobbiamo. No, non è nuovo, cioè questa è l'unica volta, probabilmente 100 Celle Avengers fa la notturna. Vabbè, era una puntata speciale. Ma in effetti è come quando dicevamo no, la puntata di due ore non la faremo mai più. Esatto, esatto. C'è chi non regge il ritmo delle due ore, quindi va, esce fuori a fumarsi la sigaretta e poi non rientra. C'è e siamo più... da soli, siamo da soli. C'è più minutaggio per noi. C'è più minutaggio per non averne, perché in realtà abbiamo ancora una folta rubrica. È la prima. Grazie. Quando io balbetto, Silvano capisce che non sto cercando, che non sto trovando la sigla, ma ora l'ho trovata e questo è il momento in cui mi piango addosso. Sarà per questo che la gente se n'è andata. È il momento di traumi fonici. Sei fregato. Che cazzo state dicendo? Andiamo. Sono il vostro fonico. Siamo nella valle, bello. Ci sono un sacco di fonici qua. Oh, ed oggi a traumi fonici parliamo di un qualcosa che è difficile da trattare perché è fresco, fresco, fresco, fresco, e quindi come tutte le cose ancora da elaborare, ecco, può essere, diciamo, insomma, vorrei oggi parlarvi di questa esperienza che mi ha tenuto lontano da voi, lontani dal cuore, e ha impedito anche a 100 Celle Avengers di andare in onda la scorsa settimana come doveva, e che appunto si chiama, per chi la conosce, la Maratona Telethon. La Maratona Telethon è un evento Rai al quale sto partecipando. È una cosa buona, è benefico, no? Allora, anzitutto sì, assolutamente è benefico, non sto qui a dare il numero che hanno dato tutto il giorno, mandare l'SMS, casomai possiamo anche sostenere la ricerca della mia felicità e mandare a me i soldi volendo. Potete è sempre mandare... una ricerca, però comunque quella è una maratona per raccolta fondi della ricerca, e quindi è un purpurri di varietà della Rai, di quelli abbastanza di basso profile, però in cui noi ci troviamo, noi intendo ditte appaltatrici di servizi per la Rai, perché appunto c'è un grosso noi voi, che già normalmente c'è quando sei, insomma, al servizio di una qualche produzione, tu service di fonici, ma con la Rai è in realtà una roba diversa, un qualcosa per, cioè, non tanto perché poi sono fonici con altri fonici, ma soprattutto perché la Rai, come sapete, siete voi, cioè, mentre di solito siete anche voi, siete, non lo so se pagate, ma per il forza canone, la mia bolletta, per forza. Però, diciamo, allora, la Rai è un posto statale, quindi fondamentalmente è un qualcosa che, di cui adesso parlerò magari in maniera che può sembrare offensiva o non so, ma in realtà è una sorta di invidia anche che ho, perché è, diciamo, l'unico ambito in cui i fonici traumatizzati possono trovare il posto fisso, posto l'Eden. Fisso l'Eden dei fonici. Il posto posto fisso nella vita del fonico in generale non esiste, perché si affida già a un'industria che è effimera, è l'industria dell'effimero, cura gli eventi, cose che oggi ci sono, domani no, insomma deve un pochino inseguire dei fattori esterni a invece la stabilità che ha un impiegato statale. Allora, un impiegato statale che fa il fonico per me ha vinto, cioè, nel senso cinicamente dico, non dico ha vinto Però fondamentalmente quando ci troviamo questi qua, insomma, quello che volevo dire è che troviamo della gente che non c'ha un problema nella vita, o comunque apparentemente non ce l'ha. Quindi mentre io mi oriento nel, in quello che è il, diciamo, il palinsesto di cose che vi volevo far sentire, diciamo che intanto vi vorrei far capire che la loro vita è così, è così. Mo famo, mo arriva la scaletta, tranquillo. Mentre la nostra, che ci vogliamo fare belli davanti alla Rai, perché comunque è una produzione, bla bla bla, è questo. Dai, dai, dai, porta sta pedana, dai, oh, brigati, oh, hanno chiamato il fuoriscena. Avete fatto, avete fatto, avete fatto. No, non abbiamo fatto, no, non abbiamo fatto. E tutti sudati, continuiamo a fare sta cosa. Mentre loro, mentre loro, mentre loro, mentre loro stanno nella regia. E fondamentalmente le ditte appaltatrici si occupano delle cose un po' fastidiose. Strano, perché poi nel pubblico non accade mai questo. Cioè, veramente. Tranne Sanremo, che la fa solo la Rai, le altre beghe, diciamo, audio, le smollano a delle ditte come la mia, che si occupano di fare il tutto. E quindi, insomma, diciamo che io, cioè, ho un po' di invidia, perché o c'è questo, cioè il loro posto fisso, cioè proprio questa. Domani ci sono uguale, come faccio? Faccio. Vi farei sentire che cazzo abbiamo fatto oggi. Vabbè. Chi ha fatto in goccia? Chi stava su Rai 1 può sapere che fogna abbiamo fatto di trasmissione. Bevici sopra. Però era per raccogliere fondi comunque. Però voglio dire, c'è questo, oppure c'è sta il mondo dell'industria, quella cioè il privato, diciamo, di questo mondo. Quell'industria che noi inseguiamo, l'effimero di cui parlavo, che è fatta di eccessi, di... Questo signore qua, che metto soltanto perché fa fastidio a Virginia, perché sono i Rolling Stones, cioè, questo signore qua quando va, cioè si dice, sono i rumors, quelli di Novella 2000 del fonico, quando va in concerto Mick Jagger chiede in camerino un biliardo, biliardo vero, ma possibilmente, no possibilmente, impositivamente con il panno azzurro. Questo si dice nei rumors. Però questo mi fa voler no, bene. No, per parlarvi poi di chi, cioè quanti devono mangiare e come devono mangiare. Perché poi c'è il fonico, fonico, e poi c'è Mick Jagger che vuole anche solo per stare un attimino nel camerino un biliardo. Che, cioè, insomma, chi lo diceva, poi faceva sapere anche quanto gli era costato affittarlo in Italia. Almeno tutto questo biliardo, è capitato guarda. In Italia, ovviamente. Mentre, per esempio, dammelo qui. Madonna, anche lei famosa perché manda dei pre-tour che arrivano e cazziano tutti e impongono dei diciamo dei codici di comportamento bizzarri, come sempre si fa con le star americane, e impone per esempio un particolare tipo di pantone rosa alla moquette del suo camerino, altrimenti non viene. Cioè tutte queste cose sono altrimenti non vengo. Ma forse cioè, sono dal non solo mio un cachet di quanto Mick Jagger quasi quanto insomma i diritti di Bruce Springsteen, ma in più voglio pure il biliardo se non me ne vado. Comunque questi sono mi i due parametri. A OTP posto fisso alla Rai, quindi ritorniamo a questo e a questo, oppure c'è quell'altro. Comunque a me è capitato di appunto interagire con gli amici della Rai, che saluto perché poi alla fine a me mi fanno pensare e in questo modo adesso faccio un po' di cultura cinematografica, a un film che mi ha fatto vedere un amico, un collega, dove c'è questa scena. Oh, Ace, che vuoi? Vattela a piangere culo. Che poi continua. Ace. No, sta, pensa una cosa. Che cosa? Perché non te la vai a piangere il culo? E se taglia, ma poi conclude. Ah, c'è? Oh. Sai chi ti ho incontrato ieri? Un coletto. Sai che mi ha detto? No. Mi ha detto che te la devi andare a... Allora, potrebbe sembrare che ho messo da roba che non si deve mettere in radio, però questo è Fellini, l'intervista... Il film che si chiama L'intervista di Fellini, sì. Dove ma appunto, siccome lui amava il mondo delle Cinecittà, in questo caso, che io lo vedo un po' come la Rai, queste cose nate nel ventennio, un po' appunto poi abitate ancora oggi da macchinisti e gente che parla così, appunto gli piaceva ritrarre appunto dei macchinisti, in quel caso, che pitturavano la scenografia imbarcati su un traballo per aria per ore e ore e ore. E questo mi fanno pensare quindi gli amici della Rai, che però appunto nel loro fare poi sempliciotti mi hanno appunto provocato il trauma fonico con cui vado a concludere, perché sennò poi pare che mi sono preso tutto lo spazio, che eravamo lunghi, che poi eravamo corti, che poi eravamo lunghi. Comunque, che cosa è successo? Che noi lì abbiamo una gestione, ahimè, mista. Allora, loro fanno scusate, i microfoni di chi canta. No, non ti incazzare, finisco, sono breve, hai ragione. Insomma, ci siamo divisi i compiti in maniera un po' bizzarra. Io mi occupo di chi ascolta e loro si occupano, cioè, quindi di mettere gli in-ear monitor. Vi ricordate questo ascolto particolare in cuffia? In-ear monitor, sì. No, scusate, ho dato così, vi ho sottovalutato. E, mentre loro si occupano di dare i microfoni. Ora, quindi ci vuole una comunicazione, perché l'in-ear monitor è settato poi per far sentire un solo microfono e uno solo all'interno delle sue cuffiette, quindi se... appunto, se dovessi per caso tu, esperto fonico della Rai, dagli il microfono sbagliato, potrebbe in quel caso non sentire. Vi ricordate una circostanza in cui Tramo i Fonici ha parlato di questo? Si trattava di Vilma Kovic e Vianello. Quella volta io avevo a disposizione un solo mix per accontentare tutte e due. Tutte e due i quali si odiavano fra di loro, quindi far sentire troppo lei a lui o troppo lui a lei era un problema. È stato un momento molto divertente. In questo caso non succede questo, perché tutto sommato qui, nonostante l'odio che c'era fra di loro, loro potevano continuare a cantare. Quando proprio non puoi continuare è quando in realtà tu nella tua cuffia, invece di sentire quello che devi sentire, senti... Oh, io stacco, fra un po' gli famo il vento. Senti, io mi sono torcato. Oh, che succede? Oh, non si sente linea! Non si sente linea! Allora, questo lo riporto come testimonianza anche di Gabri, che era dall'altra parte del cavo telefonico. Guardavo la televisione. Sì, io guardavo Rai 1, come non mi capita da molto tempo. E c'era appunto la puntata della maratona Teleton. E quindi ho sentito proprio in diretta la voce del fonico quando cantavano i Modena, tra l'altro, i Modena City Ramblers. Esatto, cioè fondamentalmente questa cosa ci ha mandato in vacca l'unico cambio palco vero che avevamo quella volta, cioè i Modena City Ramblers, che a noi stavano anche volendo simpatici. Ma che proprio, vabbè, con le modalità di cui la Rai si fa portatrice non era proprio possibile farli bene. E quindi appunto questi poverini si sono sentiti il microfonista che parlava, perché si era tenuto il microfono che gli doveva dare e gli aveva dato un altro. Vabbè, questo per fare chiarezza, ma soprattutto a questo punto introdurre il pezzo che chiude questo grosso mattone di fonia, che riguarda sempre la Rai. È un pezzo di Caparezza che parla di quelle famiglie che forse non esistono più, come forse non esiste neanche più l'istituzione Auditel, ma che comunque era quella che monitorava lo share, mettendo delle macchinette a casa di alcune genti campione, che quindi facendogli vedere cosa si guardavano, cosa gli piaceva, poi li orientavano secondo i programmi. Questa è stata la grande menzogna degli anni 80 e 90, perché poi appunto si dice che facessero un po' come gli pare. Ma dai, no, veramente? Ma veramente? La famiglia Campione, come si chiama? La famiglia Campione, esatto. E quindi Caparezza, che è uno che sa dire meglio di me le cose, ci ha detto così. Sembrano quelli dell'azione cattolica, una setta diabolica che decide la conica, tutto ciò che si colloca nella sfera catodica. Un'insolita accolita che conserva in una caverna il sacro share che dà la trasmissione eterna. Fantasmi che infestano una stamberga nell'attesa che un direttore di rete vestito da prete ne asperga l'eterga. Noi decidiamo chi va in onda e chi va al diavolo. I conduttori ci invocano con i palmi sul tavolo, chiamano spirito, se ci sei batti un colpo. Col cavolo, vuoi parlare con noi? Beh, per adesso beccati il tuo trisavolo. Siete tristi, volete fotografarci come turisti, svelarci come Agatha Christie, ma nessuno ci ha mai visti. Credeteci, siamo spiriti maligni e satanici, portiamo in basso gli indici per innalzare i calici. E quando si fa buio cantiamo tutti in cor. Tangigi tang, tangigi te, siamo le famiglie dell'Auditel. Tangigi te, tangigi tang, siamo noi che custodiamo lo share. Siamo spiriti nell'oscurità. Ebbene sì, siamo gli Auditel, Ebbene, tramite un meter portiamo a termine mandati per cui siamo indicati come commenti a Bethlehem. Per le televendite l'Eden, per il teleutente Requiem. E se il telefilm fa schifo si becca pure il sequel. Fissare una rete sarà umiliante per Boris Becker, non per noi. Segreti come lo specchio di Nanni Loy, ma famosi come Leroy, eroi come Brad Pitt in Troy. Noi che riempiamo le fosse più del senno di poi. Abbiamo un piano con un punto cardine: trasformare i consigli per gli acquisti in un ordine, affossando i programmi di qualità, perché l'utente intelligente si sa che non ama la pubblicità. Tanto di novità ce ne saranno un paio, le votiamo per sbaglio e ci bloccano con l'aglio. Svaniranno per un comando dell'Ubi Maio. Shusha, il fatto satirico nel Riot. Non si solleverà nessun vespaio. Siamo le famiglie dell'Auditel. Siamo noi che custodiamo lo share. Siamo spiriti nell'oscurità. Premieremo con la pubblicità programmi di merda e non di TV di qualità. Tu non voti alle politiche, ma ti lamenti se le condizioni sono critiche. Pure te le voti l'isola dei famosi d'Egitto, convinto d'aver esercitato un tuo diritto. Segui l'arma e mille fiction da commediografo. Se ti ferma il caramba chiedi l'autografo. Sposi la causa dei tifosi, in TV c'è più calcio che in una cura per osteoporosi. Avete problemi a palate, ma le fidate agli astrologi. Vi interessate i cazzi altrui come gli andrologi. E noi che abbiamo addetti perfetti per scientologi, vi tramutiamo in cadaveri per cubici sarcofagi. Vuoi scovarci? Provaci, la strada è angusta. Non siamo secondi né alla CIA, né al KGB, né a Confindustria. Fa la cosa giusta, prendi la frusta e scendi nella Genna. E fatti sfidare dal templare di Sant'Angenna, che con un motivetto ti spina. Tanti di tan, tanti di te. Siamo le famiglie dell'Auditel. Tanti di te, tanti di tan. Siamo noi che custodiamo lo share. Siamo spiriti nell'oscurità. Tanti di te, tanti di tan. Premieremo con la pubblicità programmi di merda e non TV di qualità. Sempre su Radio Forte 100 Celle Avengers, quando ti rendi conto che sei andato corto, per questo ho messo lo stacchetto così drammatico. Sì. E mo? Quanta ansia, non capitavo quasi mai. Quanta preoccupazione. E cioè, io ci che ti avevo imposto di essere corta sulle tue classifiche. Sì, adesso pensa, mo faccio colpi bassi. Puoi fare una classifica al mo violone. Ma mi metto subito a fare la classifica sottovoce, pacatamente, perché comunque stiamo avvicinandoci alla mezzanotte, in quell'orario in cui la gente riposano. Quindi posso andare molto lentamente? No. Allora, la classifica in questo momento non riguarderà soltanto me, ma l'intera redazione di Simply Sampled. E quindi io direi che, maestro, lei può cercare e trovare la sigla. Simi, ascolta Tommy con una candela accesa e vedrai davanti a te il tuo futuro. Cioè, ma tu ti rendi conto di quanto è stato forte il maestro che te l'ha trovata subito? Sì, perché ho parlato subito a rallentatore. Mi hai dato il tempo teatrale, bravissimo. Sì, sì, sì. Nel frattempo guardo la mano se sta già cercando e poi dico sigla. E a proposito di questo fantastico escamotage che troviamo ogni volta, io direi che possiamo parlare dei veri sample iniziali di questa trasmissione. Oh. E come ho fatto il fantastico regalo di Natale ai Fake Four, adesso mi sento di fare un regalo di Natale a tutta quanta la nostra redazione. E quindi che cosa è successo oggi? La redazione invece ristretta di Simply Sampled, quindi siamo io, Silvano e Ariel, abbiamo scelto tra le sigle della nostra trasmissione, quindi sono il nostro vero amore per i sample, Abbiamo scelto le tre migliori con una votazione certosina, fatta ovviamente da me, fatta anche da Silvano e fatta anche da Ariel. No, non è vero. Il cui voto è stato decisivo. Il voto di Ariel, sì, ha fatto quando le piaceva un pezzo. E quindi che cosa stiamo andando a fare? Stiamo andando a giocare con il maestro. Quanto ci mette lui di solito a trovare una sigla? Beh, lo scopriremo subito, perché lui non sa nulla di quello Abbiamo che sta per accadere. Abbiamo 19 minuti, maestra. Abbiamo 19 minuti. Beh, io intanto mi fermerei qui, perché per il super classificone finale di Natale della redazione di 100 Celle Avengers passa immediatamente a DJ Silvano. Sì, ma la classifica ce l'hai tu, io ti voglio male. Ma te li ricordi? Sono tre. Ma sì, certo che me li ricordo. E allora allora, c'è il quadernino. Per giocare con il nostro maestro DJ Silvano. Senza dare al cool. Indizio. Per favore. Al subito. Terzo posto, votata con un grandissimo abbaio da Ariel. Oh. La sigla di Cigni di Balaka. Olè. Vediamo i secondi per trovare i Cigni di Balaka. Due. I. You were my friend. Ma non lo senti? Che è uguale ai cigni di Balaka. Beh, questa sigla è sempre molto bella. Ci piace sentire questo montaggio. Ma no, che senza posso indugi. Dire una cosa, che oggi, ma certo. Oggi passeggiavo sull'Appia, no? E a un certo punto a fianco a me è passato uno che ha fatto babà. E io ho pensato subito alla sigla dei Cigni di Balaka. Pensa a scoraggio. Pensa te, se avesse intonato proprio la canzone di Albano, sarebbe stato bellissimo. No, però l'ha fatto uguale. Babà. Ma io so che questo campionamento diventerà famoso prima o poi. Lo canteranno tutti per strada. Babà. Assolutamente. E adesso però passiamo senza indugi alla seconda posizione classifica. Vada DJ Silvano. La seconda posizione classifica non so quanto possa essere meritata, in quanto questa è una delle ultimissime rubriche che sono uscite nella nostra trasmissione. Le votazioni sono state fatte in maniera assolutamente neutrale. Assolutamente. E per questo al secondo posto si trova Video Dance on the Radio. Vai, vediamo se già ce l'ha. Incredibile. Bravo. Ma Virgi, che hai? Ti vedo giù. Ma come? Io avevo pronte le coreografie, i costumi, trucco, parrucco. E chi le vede mo ste cose? Ah. Senti io. Cos'è? Il musical? Senza la dance. Capito? Ok, Virgi. Cioè, vi rendete conto di quanto è bella questa sigla, nonostante tutto? Ma io non parlo assolutamente come persona interessata, perché veramente non ho... Io veramente quando ti facevo dei segnali in cui ti dicevo parla tanto, era per il numero uno, non per il numero due. Ah, per quello dicevi. No, sai, perché sì. Io sto guardando il cane che magari se ne va per il forte. No, se n'è andata davvero. Carino. No, sta qua, non ti preoccupare. Ma adesso invece dobbiamo passare alla prima posizione. Posso proporre che per la prima posizione tu metta un riverbero che dà un po' di così enfasi. Ma senti, ma lo vuoi dall'inizio o solo su? Io lo metterei però solo su and sul the nome is, and sì. The winner is, esatto. Quindi adesso devi parlare della rubrica e vedere se si capisce. A piacimento. Vabbè, è molto difficile parlare senza che non si capisca di questa rubrica. Dai, però facci indovinare, facciamo. Ma qua, voi qua, avete qua. Mai litigato nella vostra vita? Liti, eh? Sì, voglia. E questi litigi a cosa hanno portato? A degli split up? A delle riconciliazioni? Mi sa che ho indovinato. Lei sta capendo, questa è la sigla che io preferisco in assoluto. In quanto è una sigla che ha un montaggio clamoroso. E questo tempo che prima è lento e poi diventa veloce. Ma dov'è DJ Silvano? Questi io non lo so dove è finito, però. È arrivato Ferrero. È dentro di te. È arrivato qualcuno. Presidente della Sampdoria. Ma dove sta il cambio? Io non ho fatto niente, lo giuro. Forse sta a fa la cacca. Comunque c'è un hype pazzesco sulla prima posizione. Ma sì, perché prete. Gli hai lasciato il tempo di trovarla. Però poi, tra l'altro, non è giusto. Ma no, ma infatti, io non ho ancora finito di dire che. Cambiala. Perché alla fine questa. perché alla fine c'è questo. E dillo. Alla prima posizione, the winner is Rise and Fall. La nostra relazione è terminata. Insieme a te non ci sto più. Lasciamoci. Lasciarsi un giorno potresti dire addio. Lasciarsi. Io ci sto. Poi, poi. E improvvisamente stiamo di nuovo insieme. Stiamo insieme di nuovo. Che bellezza. La nostra banda vale. L'ho fatta. L'ho fatta. Ricominciamo. Siamo amici, siamo sotto sotto la cenere. Ci sono amici che aspettavano. Ma che si chiude la la la la la. Inseparabili. Incredibile. Capolavoro. Spero che questo regalo di Natale redazione vi sia piaciuto, ovviamente. Grazie, grazie Virgiani. Io ho fatto il possibile, ho allungato l'acqua, non lo so, ditelo voi. Cosa vorrei chiedere, già che abbiamo la fortuna di avere l'autore di questa sigla qui, allora adesso devi dirci tutti i brani che hai campionato per fare Rise and Fall. Io vado a recuperare cane. Veramente tu dovresti dirmi un po' quanto viene il conto eventualmente per chiedere i diritti a tutte le persone a cui abbiamo preso anche un brandello. No, di... molto più semplicemente volessi chiedermi quanti ne avevo riconosciuti. No, a me piaceva pensare comunque che loro avessero contribuito spontaneamente, come del resto ha fatto. Un saluto da Luciano Ligabue, state ascoltando Radio Forte, questa è 100 celle Avengers. E tanti altri, non solo lui, però voglio dire, c'è anche... Stai ascoltando Radio Forte e questo è 100 celle Avengers. Vari artisti riuniti hanno contribuito. Comunque la sfida in realtà io la volevo girare ai nostri ascoltatori che sul canale Telegram, che andiamo a ricordare, t.me/radioforte100celleavengers, bisogna dire le cose giuste senza il www. Mi sembra. Sì. Dovrebbe essere. Dici correttamente Radio Forte 100 Celly Avengers. 100 scritto a numero. Ecco, esatto. E attraverso questo canale voi potete partecipare al simpatico quizzettone Indovina i brandelli di sigla. Poiché le sigle nostre, insomma, sono un po' tutte sbrindellate. Alcuni brandelli io stesso, delle sigle degli altri intendo, non li ho localizzati, ma non gliel'ho detto per non offenderli. Ma non è questo il vero Simply Sampled? No, esatto. E infatti andremo a fare una disà Mina di quello che sono stati i nostri brandelli di vita, che abbiamo messo nei nostri brandelli di sigla. E in questo momento 23:49 su Radio Forte 100 Celle Avengers, lo dico tutto, 18 dicembre di questo meraviglioso 2021, noi in realtà andiamo a recuperare, per recuperare anche un po' l'ascolto del nostro ascoltatore in prima fila, che è Manuela, andiamo a recuperare una rubrica che oggi ha taciuto per lasciare spazio alle altre rubriche, e la cui sigla io troverò fra circa mezz'ora, tempo utile non per è in chiudere, classifica ed è 100 celle Amarcord. Ricordati di te com'eri prima, pure estate fa l'anno vecchio è finito ormai, pure estate fa tutti quanti stiamo già aspettando, pure estate fa messaggio che è un nuovo anno. Mi ricordo che anni fa, pure estate fa, ricordati di me. E proprio un'estate fa, si tratta del saggio della scorsa edizione della scuola di musica, quando si parlava di Mesopotamia, quindi un pezzo che in realtà abbiamo già ammesso, ma che ci fa piacere mettere adesso perché non è natalizio, però a me mi fa un po' Natale, cioè sarà che stava alla fine di Tutti i pazzi per Mary, era un po' allegro. Comunque si tratta della nostra Manuela che ci canta Build Me Up. I love you, Steve. E in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, gli ultimi 5 minuti di trasmissione di questa sperimentale 6. Scusa. Ringraziamo Manuela che ci sta ascoltando, sempre sveglia, sempre attiva sulla nostra chat, sulla nostra chat di Telegram. Più di noi, Manu, più di noi. La nostra fan number one. Abbonato in prima fila. Con la macchinetta dell'Auditel. Dice che ci ascolta da 500 metri di distanza. In effetti, ma potresti fare un salto qui, affronta la bufera, vai. Fuori ci sono solo 0 gradi, cioè, insomma. Ancora fattibile. Mamma mia. E infatti invitiamo sempre, cioè non è la prima volta che la invitiamo anche come potenziale, diciamo, ospite, nonché, vabbè, io le farei fare una rubrica subito, però perché noi abbiamo la rubrica facile, quindi mi viene sempre vero, da dire, ma te dovresti fare una rubrica. Allora, buoni propositi per l'anno nuovo. Oh. Meno Manuela. Rubriche o più rubriche? Più rubriche, dai. Ma dobbiamo anche dire di aver ricevuto un secondo fantastico regalo quest'anno. Giusto, prima di chiudere la trasmissione. Cioè, dico secondo nel senso che è arrivato prima in ordine di consegna, però ne parliamo successivamente al tuo, Virgi, a te che ci hai regalato la classifica di Simply Sample delle sigle di 100 Celle Avengers, bellissima. E il secondo regalo ricevuto dalla redazione è una splendida targhetta che targona è una targona al collo di Ariel, non ci sta. Mi dispiace che non abbiamo la stanza Gizzi per mostrarla. Vero. Accidenti. Esatto, riproduce il logo di 100 Celle Avengers e su Instagram, e in metalli preziosi e su Instagram dalle retrovie. Comunque la maestra Viola non sta lì. Sono con le mani pezzo, in mano no. A girarsi i pollici, no. Potete vederla su Instagram, ma comunque vi garantiamo che ha un valore inestimabile. Bellissimo. Insomma, chiaramente. E soprattutto ringraziamo il signor Paolo, grandissimo artista del metallo, che fa questi lavori meravigliosi e ha perso, non so, penso miliardi di ore per fare questa targa per e noi. l'uso delle due mani, idiotrie, la bocca a un certo punto. Un gran lavoro, è venuta veramente bene. Grazie Paolo. Mamma mia. Grazie Paolo e grazie Betta soprattutto Betta, che sì. Ci ha stupito questa sera con questo regalo a sorpresa, sorpresotta. E ci rimane praticamente solo il tempo di dire che questa puntata, così come le altre, mamma mia come mi piace questa frase sempre uguale a se stessa, la trovate in podcast sul sito fortevenestino.net/radioforte. Che per ascoltare Radio Forte invece dovete fare Radio Forte / Forte Brenestino. Sì, vabbè, insomma, la cosa più facile è andare sul sito del CSA Forte Brenestino, nella sezione Radio Forte, trovate di tutti i tipi di contenuti. E che nel salutarvi, nel dirvi che vi voglio bene e che vorrei sentirvi fare un ultimo rabarbaro, io vorrei lanciare per la prima volta in diretta, perché le altre volte abbiamo messa nel passato, la sigla longa di 100 Celle Avengers, incredibile, con la partecipazione di Hey Hey Hey Stick detto B, perché dobbiamo salutare tutti, insomma, in questa fine anno. Questo sì. Fine anno salutiamo tutti e ci rivediamo chissà quando. Io volevo fare la puntata di Natale, ma me l'hanno bocciato. Ma è Natale. Sì. No. Sicuramente nel 2022, quindi. Abbiamo maestro. Fatto finta, raga, era una cosa di business. Vabbè. Buon anno, amici. Buon anno. Buon anno. Sigla. Buon 2022. Oh, te, tanto calla la gente, la città che si riprende. La maschera è presente, bombe sulla gente, saperne dove e quanti invadono altri mondi, a corsi da galassie, balzano, conquistano in onda sugli schermi danni. Touch, don't touch, rimpiccioli fa allarmi, ma il tempo è differente, agganciamento d'armi ancora più forti, Defender, Infinity Avenger, rilanciano l'attacco, con un raggio corto c'è più impatto, visioni, dirigono i più forti, nella salvezza delle gemme tuoni, tuoni e suoni di altri suoni, Park e Strange, dirigono a Titano, al fianco Stark tutto sembra volgere in azione, Capitano Hulk e Thor richiudono i portali, ripristinando, combattendo armi nucleari, riportano la pace, passando tra incantesimi, scettri, mostri disumani, la terra non precipita ma è salva, energia per questo ricomincia, vince, ritorna forte con i valorosi, Avengers! Grandi eroi di prima, Avengers. Sei che non vedi perché non sono più felice. Avengers, senti veramente. Avengers, non sono nella paura della gente. Avengers, tanto c'è la legge, la musica si difende. Oggi non ce la faccio più, oggi non voglio più.